Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati in questo nuovo spazio dedicato al mondo della scuola, in studio Mirko Cavallini, regia di Daici, e con me due ospiti. Una ci terrà compagnia praticamente per un mese, Maria Luisa Furlan, presidente provinciale dell'UCIM di Treviso, bentornata. Salve. UCIM, che è l'Unione Cattolica Insegnanti Medi. Però comprende insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado e anche dirigenti scolastici. Perfetto, e con lei anche Maria Chiara Bazzan, che dell'UCIM è consigliera nazionale, oltre a essere dirigente scolastico dell'ISIS Verdi di Valdobbiadene. Bentornata. Grazie. Con voi parliamo di un appuntamento che è nei prossimi giorni, venerdì 22 novembre, ed è un convegno di studio su un tema che potrebbe sembrare il nome di una medicina, una sigla un po' misteriosa, ma che andremo a spiegare. Una doppia sigla che è DSA e BES. Vogliamo già spiegare? Cominciare, sì. Sì, è il caso. DSA sta per disturbi specifici di apprendimento e BES per bisogni educativi speciali, anche se poi il convegno non sarà sui disturbi o sui bisogni, ma sugli studenti con disturbi specifici di apprendimento e gli studenti con bisogni educativi speciali, quindi cosa può fare un consiglio di classe, la famiglia, eccetera. Ecco, ricordiamo che questo convegno di studio è promosso non solo dall'UCIM, ma con una serie di collaborazioni. Sì, con l'AIMCE, quindi con l'Associazione Italiana Maestri Cattolici, l'AGE, l'Associazione Genitori, e poi naturalmente con il patrocinio e la collaborazione di tutta la consulta diocesana Scuola, Educazione e Università. Venerdì 22, ore 17, Casa Toniolo a Treviso, con un intervento autorevole. Sì, abbiamo chiesto alla professoressa Olga Bombardelli, che è ordinario di Pedagogia Generale all'Università di Trento, di essere con noi, perché è una specialista in questo campo. È stata qui a Treviso una decina di anni fa per un incontro partecipatissimo sulla dislessia, e la dislessia è uno dei disturbi che rientrano nei disturbi specifici di apprendimento. Magari piccoli, piccolissimi, un po' grandi, insomma, ci sono diversi livelli, evidentemente, professoressa Bazzan. È giusto, ovviamente, che ci si occupi di questo, che voi insegnanti, dirigenti, ve ne occupiate, ne siate coscienti, innanzitutto. Quindi diamo un'ulteriore definizione di questi DSA, disturbi specifici di apprendimento, e bisogni educativi speciali. Sì, diciamo che i disturbi specifici di apprendimento erano già stati presentati con una legge quadro del 2010, una direttiva, la legge 170, che ha permesso ai ragazzi con questi disturbi di avere una certificazione che permette, presentata alla scuola, di avere alcune norme, diciamo, facilitazioni, dispense, strumenti compensativi e così via. Mentre per quanto riguarda i bisogni educativi speciali, è una novità, diciamo così, dell'anno scorso, di una direttiva e poi di una circolare, una direttiva del 2010, di dicembre 2012, scusate, e poi di questa primavera del 2013, che include un po' tutto. Quindi negli allievi con bisogni educativi speciali ci sono sia i ragazzi che hanno disturbi specifici di apprendimento, sia i ragazzi che hanno svantaggio sociale e culturale, sia magari ragazzo straniero che è appena arrivato dall'estero e che quindi ha bisogno, lo si chiama bisogno temporaneo, un bisogno educativo speciale in quel periodo, dopo magari che si risolve. Diciamo che è uno strumento che viene dato alla scuola per poter affrontare con i ragazzi e con le famiglie serenamente quello che può essere una difficoltà temporanea in alcuni casi e magari invece in alcuni casi un po' definitiva. Ecco, Maria Luisa, l'essere coscienti di queste realtà aiuta evidentemente voi insegnanti a far meglio il vostro lavoro, suppongo, e poi a rendere tutti partecipi inclusive. Ci sono le tariffe, sì, telefoniche inclusive, ma ci sono anche questi programmi, no? Sì, questa è l'idea, cioè le finalità di questi provvedimenti mirano proprio a garantire il diritto all'istruzione di tutti i ragazzi. E anche perché in questi casi si tratta di ragazzi che se adeguatamente supportati possono avere dei risultati anche dal punto di vista del profitto scolastico in generale ottimi, per cui non si tratta di ragazzi che hanno dei problemi che rendano difficoltoso un percorso scolastico in senso ampio, solo che hanno delle difficoltà specifiche oppure temporanee, e quindi si tratta di norme intese a favorire il successo scolastico anche attraverso delle misure didattiche, appunto, di supporto, che possono promuovere lo sviluppo delle potenzialità di tutti e anche ridurre i disagi relazionali, emozionali che questi ragazzi si trovano a vivere quando si trovano con una classe di ragazzi che affrontano la realtà in modo diverso, per cui magari leggono, calcolano oppure si trovano a utilizzare alcune risorse in maniera diversa. Ecco, sono anche le capacità, le caratteristiche di ognuno, insomma, credo. Sì. Sia nel rapporto tra insegnante e alunno che tra gli alunni stessi. Sì, per esempio DSA, disturbi specifici di apprendimento, magari sembra una cosa molto astratta, concretamente possono essere problemi di disgrafia oppure di discalculia, ragazzi che fanno fatica ad affrontare l'orizzonte numerico oppure dei calcoli, che però non hanno le difficoltà matematiche oppure nella concettualizzazione, oppure di disortografia, quindi che scrivono le lettere invertite o cose del genere, però questo non vuol dire che questi ragazzi appunto non possano affrontare un problema, un percorso scolastico completo. Voi, aggiungo questa domanda prima della pausa, professoressa Bazzan, questi temi li affrontate oltre che in questo convegno del 22 anche a livello di consiglio di classe, di consiglio di istituto? Certo, a livello di consiglio di classe, perché è proprio il consiglio di classe che ha il compito di costruire un piano didattico personalizzato per ogni studente che ha bisogni educativi speciali. Quindi sicuramente viene trattato in questo contesto, per cui oltre che fare, diciamo, il piano educativo personalizzato, c'è anche un discorso poi più in generale di fare anche un piano annuale dell'inclusività, che la scuola ha l'obbligo, diciamo così, il compito di fare ogni anno. Quindi, diciamo, da questa circolare nata quest'anno ci sarà questo compito, per cui ogni scuola dovrà pensare a fare a includere, e quindi adesso non si parla più di integrazione ma si parla di inclusione, e quindi verrà appunto preparato questo piano. E tra poco entriamo nello specifico e dei disturbi e dei bisogni. Prima pausa e tra poco ancora insieme. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ognuno pensa solo a se stesso, questa è la verità. Dici che sono cinico io, forse ti ho deluso. Dammi un'altra possibilità per dimostrarti l'amore che provo per te, e vedrai, non ti deluderò. Vengo da te, porto del vino, no, non fa niente, ce l'ho già qua. Porta il sorriso e la speranza se ancora è in te. Io per te inventerei un altro mondo, perché per te io vorrei solo gentilezza. Dentro te, quello che manca dentro me, se sarà per sempre, questo non lo so, ma adesso sono sicuro che io voglio stare accanto a te. Il tuo vino, cerco i tuoi occhi, guardi davanti a te, chissà se pensi a qualcos'altro e non ti sento vicina. Dammi un'altra, un'ultima chance per dimostrarti che dentro me c'è la speranza, il desiderio, c'è la passione vera. Io per te inventerò dentro me. E se sarà per sempre, questo non lo so, ma adesso sono sicuro che io voglio stare accanto a te. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, insieme alle professoresse Maria Luisa Furlan e Maria Chiara Bazzan dell'UCIM, per anticipare i contenuti di un convegno di venerdì 22 a Casa Toneolo a Treviso sul tema DSA, disturbi specifici di apprendimento, e BES, bisogni educativi speciali. Poco fa professoressa Bazzan ha distinto due parole che possono sembrare sinonimi ma non lo sono, cioè l'inclusione e l'integrazione. Sì, è vero. Ultimamente si parla di inclusione, mentre fino a non molto tempo fa si parlava di integrazione. Ed è, mi è piaciuto una volta chi ha fatto una distinzione e ha spiegato la differenza, soprattutto per esempio per uno studente straniero appena arrivato. Integrare o anche non integrare vuol dire che lui deve adeguarsi alla nostra cultura. Includere vuol dire che noi lo prendiamo così com'è e quindi non è che noi dobbiamo adeguarci alla sua, però lo dobbiamo accettare e comunque includere in quella che è la nostra didattica o la nostra cultura. Mi è piaciuta questa distinzione, quindi integrare vuol dire che uno si deve adeguare a quello che è un modello, uno schema. Includere vuol dire che comunque c'è un'attenzione a quello che uno è, che porta, e per cui si fa in modo tale da accoglierlo. Certo, cambia l'atteggiamento, cambia e poi evidentemente cambia anche il risultato. Allora, dicevamo DSA e BES, due sigle un po' misteriose che anche voi state cominciando a conoscere dopo questo documento del 2012. Disturbi specifici di apprendimento. Proviamo a dare qualche definizione, anche qualche esempio in più. Certo, allora si parla sempre di dislessia, disgrafia, discalculia, perché sono quelli più noti. Si scoprono di solito alle scuole primarie, però in realtà noi scopriamo che arrivano alle scuole superiori tanti ragazzi che hanno già magari superato, perché hanno trovato strategie per compensare questo disturbo, che viene diagnosticato anche a 18 anni, 20 anni, quindi 16 anni, quindi non solo da piccoli. Ed è chiaro che questo è un disturbo che crea dei problemi per ragazzi che devono leggere. Per esempio leggere a voce alta è una cosa che non si dovrebbe far fare a ragazzi che hanno questo disturbo, proprio perché per loro è una, anche far rileggere un testo che per noi sembra che rileggere possa essere un aiuto, per loro è leggerlo un'altra volta come fosse la prima volta, quindi non è un aiuto ma è una tortura per certi versi, quindi far leggere. E quindi per esempio i ragazzi in questo caso usano anche delle sintesi vocali, cioè qualcuno che computer che legge per loro, perché chiaramente parliamo di ragazzi che hanno un quoziente intellettivo standard, normale, più che normale, per cui non ci sono problemi di, come invece c'è la certificazione della legge 104 che prevede anche l'insegnante di sostegno e così via, perché lì parliamo di deficit, di un altro livello di deficit. Qua parliamo di ragazzi perfettamente con quoziente intellettivo perfettamente normale, che però hanno questi disturbi per cui bisogna risolverli con tipo sintesi vocale, l'uso della calcolatrice per esempio per fare i conti, oppure la dispensa, ma lo dirà meglio Maria Luisa che è insegnante di inglese, la dispensa per esempio dello scritto per le lingue straniere e così via. Un'altra attenzione è anche quella, per esempio, di costruire i testi che si leggono in un certo modo, perché questi ragazzi soprattutto quelli che hanno problemi di dislessia, fanno fatica a leggere dei testi dove ci sia testo inframmezzato magari da immagini, per cui avere adesso, poi che c'è del materiale multimediale, c'è la possibilità di avere i testi anche su formato digitale, quindi anche ormai le case editrici si stanno adeguando a questo, la possibilità appunto di distinguere il testo dall'immagine, loro anche solo avere l'immagine prima e il testo dopo rende molto più agevole la lettura, lo studio, oppure l'utilizzo di alcuni caratteri nella scrittura rispetto ad altri, o il fatto stesso di lasciare che le righe finiscano quando finiscono le parole invece di allineare tutte le parole a destra e a sinistra. Questo rende più facile per questi ragazzi la lettura e lo studio, per cui sono delle misure in realtà che non sono particolarmente non li dispensano da nulla o da poco. Può essere vero di avere l'attenzione magari che non compito scritto di non esagerare con il far scrivere cose a un ragazzo che ha difficoltà a scrivere, oppure appunto lasciare che utilizzi la calcolatrice se ha problemi di discalculia, però accanto a questo davvero si tratta di, poi alla fine per questi ragazzi in generale, a meno che non abbiano bisogno di prove molto ridotte, la certificazione finale è simile o in tutto analoga a quella degli altri. Ecco, appunto, arriviamo alla certificazione. Prima la professoressa Bazzan citava la legge 104 per i casi evidentemente più gravi. Chi è l'autorità che dice qui c'è davvero un disturbo specifico di apprendimento, un DSA? Ecco, allora, bella questa domanda, perché in effetti è uno dei problemi che ci eravamo posti e che la normativa ha sciolto, nel senso che sono solo, diciamo così, non sono i medici privati o il medico di base, ma sono proprio delle strutture specifiche, cito la nostra famiglia per dire, l'ULS eccetera, che possono dare, cioè quindi la regione ha costruito un albo dove ci sono sono elencate tutte le strutture che possono rilasciare queste certificazioni, certificazioni che vengono rilasciate su un protocollo che chiaramente fa capire se un ragazzo ha questo disturbo oppure no. Chi è che chiede la certificazione? La famiglia o l'insegnante? La famiglia, lo deve chiedere la famiglia. La scuola può indicare alla famiglia la possibilità di certificare, però è la famiglia. È la famiglia che lo chiede e la famiglia che lo presenta. Il ruolo del consiglio di classe? Il ruolo del consiglio di classe è quello innanzitutto di prendere atto della situazione e anche eventualmente di stare allerta se ci sono situazioni sospette di disturbi specifici di apprendimento, per attivare delle eventuali verifiche e segnalare alla famiglia che possa procedere a una verifica più approfondita. E poi il consiglio di classe deve elaborare dei piani didattici personalizzati che possano aiutare questi ragazzi a fare un percorso simile a quello dei compagni, però tenendo conto delle loro specificità. Non chiedendo loro cose che non possono dare. Certo. Ultima pausa e poi passiamo al secondo aspetto, cioè quello dei bisogni educativi speciali. Dal mondo della scuola. In the land of the morning. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, parlando del convegno di studio di venerdì 22 novembre a Treviso, promosso dall'UCIM provinciale, DSA e BES, disturbi specifici di apprendimento, ne abbiamo parlato poco fa, e i BES, i bisogni educativi speciali. Tentiamo anche qui un'ulteriore definizione, qualche esempio. Sì, i BES quindi comprendono i disturbi specifici di apprendimento, ma sono di più, perché non sempre anche ci sono degli allievi che possono avere dei bisogni educativi speciali, hanno bisogno di un'attenzione particolare da parte del consiglio di classe, anche se non hanno un svantaggio che derivi da un disturbo specifico di apprendimento. Possono essere svantaggi appunto sociali e culturali, oppure altri disturbi evolutivi specifici, difficoltà anche derivanti dalla non conoscenza della cultura della lingua italiana, perché appunto provenienti da culture diverse. Questo non vuol dire, anche se la normativa, la direttiva fa presente che ogni allievo potrebbe in teoria in un momento della sua vita avere un bisogno educativo speciale, questo non vuol dire che si moltiplichino i bisogni educativi speciali a dismisura, cioè è previsto che vadano in qualche modo documentate oggettivamente, se non altro perché non so, uno svantaggio sociale e culturale nasce da una segnalazione dei servizi sociali, per esempio, oppure da particolari segnalazioni della famiglia che il consiglio di classe prende in esame e sul quale comunque è unanimemente d'accordo di classificarli come bisogni educativi speciali, perché non si tratta semplicemente del ragazzo che ha un momento di difficoltà, ecco, si tratta nel momento in cui si viene stabilito che c'è un bisogno educativo speciale, anche in questo caso si fa un piano didattico personalizzato che però avrà delle misure compensative e dispensative più limitate o più che magari varranno per un certo periodo sì. Rispetto al DSA. Infatti sto pensando per esempio a una studentessa appena arrivata dalla Moldavia, che chiaramente è stata inserita in una prima superiore da me e nella mia scuola, e chiaramente questo strumento, quello del PDP, permette alla ragazza di dedicarsi maggiormente alla lingua italiana, evitare per un primo periodo di studiare materie specifiche come storia, diritto, che chiaramente conoscendo l'italiano sarebbero molto difficili, e quindi permette di fare al consiglio di classe un piano didattico personalizzato che prevede che all'inizio si potenziano alcune materie che poi magari nel corso dell'anno, a seconda del grado di diciamo così di apprendimento della lingua italiana, possono essere anche poi superate, nel senso che la ragazza a fine anno può anche essere tranquillamente promossa se riesce a recuperare la lingua e anche la materia, che per il momento non viene chiaramente valutata. Infatti uno dei problemi grossi è proprio la valutazione, perché mentre per i ragazzi che hanno la legge 104, cioè la certificazione in base alla legge 104, è previsto un piano, cioè è previsto anche un programma, una differenziazione, e quindi in quel caso lì un ragazzo che non segue il programma della classe ma fa un percorso personalizzato chiaramente può avere una valutazione differenziata sul, si chiama PEI, piano educativo individualizzato, però non ottiene la promozione con una programmazione differenziata. In questo caso invece, quando parliamo di BES e DSA, parliamo di ragazzi che hanno una valutazione uguale agli altri e che quindi hanno un titolo di studio uguale agli altri, per cui sono tranquillamente promossi, quindi non sono ammessi, non hanno un certificato di credito ma hanno proprio una promozione, e in questo caso qua appunto lo strumento del PDP è quello che ci aiuta a dire ok, ti do più tempo per esempio per fare una prova, ti do appunto lo strumento di cui si parlava prima per fare la prova, cosa che magari se non c'era queste normative era un po' difficile spiegare al compagno come mai lui ha la possibilità di usare uno strumento. Infatti volevo, mettendomi dalla parte degli altri che poi sono la maggioranza dei certo. compagni di classe, come voi da insegnanti come spiegate queste diversità insomma? E infatti qua la cosa è interessante, perché ci sono ragazzi che tra virgolette si vergognano di questo e quindi non vogliono che venga reso noto quello che magari è un loro diritto, che è quello di avere appunto degli strumenti diversi. Casi in cui invece magari un ragazzo che è anche un po' più maturo dice ai compagni, esplicita ai compagni: io ho questo problema, per favore mi date una mano, e anche gli insegnanti mi daranno una mano. Quindi è interessante anche vedere un po' il comportamento. Credo che cresca anche la solidarietà all'interno della classe, no? Sì, se la questione però viene affrontata, come si diceva, in modo chiaro e anche in modo educativo da parte del consiglio di classe, con un atteggiamento anche in qualche modo omogeneo, uniforme tra inclusivo. Tant'è vero che la normativa prevede anche la creazione nell'istituto di un gruppo di lavoro per l'inclusione, che proprio mette insieme le buone pratiche, collabori, sostenga i consigli di classe nel costruire questi piani di lavoro piani didattici personalizzati, che poi vanno firmati dal dirigente scolastico e dalla famiglia, perché poi altrimenti si crea anche qualche equivoco con le famiglie: dicono ma mio figlio fa delle cose diverse dagli altri, oppure comunque invece deve essere chiaro che cosa si può fare e fino a che punto o per quanto tempo. Quantificando ad esempio ogni 100 alunni in una scuola come l'Isis Verdi di Valdobbiadene, quanti? Allora, su 700 studenti ho 8 di BES, diciamo così, di certificazione di SA, ne ho una decina. Ecco, e quindi complessivamente non sono tantissimi di quelli certificati, no. Però ci sono, hanno tutta la dignità, certo. Allora, io vi ringrazio per essere state con noi, Maria Chiara Bazzan, dirigente scolastico appunto dell'Isis Verdi di Valdobbiadene, e Maria Luisa Forlan, presidente provinciale dell'UCIM. Vuoi ricordare tu l'appuntamento? Sì, senz'altro, venerdì 22 novembre alle 17 a Casa Toniolo, quindi via Longhin 7 a Treviso, per questo convegno di studio su disturbi specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali, con la professoressa Olga Bombardelli dell'Università di Trento. Tutti gli interessati sono invitati, ingresso libero. Grazie per essere state con noi. Grazie. Grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.